18ª unità. Seguire la moda. Dialogo. Una scelta difficile. Dica pure, avrei bisogno di un abito elegante da cerimonia. Devo metterlo a un matrimonio. Tinta unita o fantasia? Non ho idea, mi consigli lei. Attenda un attimo, gliene faccio vedere alcuni veramente belli. Tutti quei modelli. E vuoi provarteli tutti? Non mettermi fretta, ti prego. Se non ce ne andiamo fra una mezz'ora, arrivo in ritardo alla banca. Ecco, la taglia 48 dovrebbe andarle bene. Vediamo. Proverei prima questo verde, poi quello blu. Anche quello rosso non è male, ma i colori vivaci non mi donano. Mi dia retta, se lo provi. È un modello nuovissimo. E guardi che seta. Beh, me lo dia. Proverò anche questo. Anzi, lo provo subito. Allora, come sto? Non è un po' troppo vivace? Ma no. Lo sapevo che le andava bene. E che te ne pare, Giorgio? Dimmi la verità. Se devo essere sincero, non lo prendere. Non sei più una ragazzina. Ci vuole una persona alta e magra. Già, dovevo immaginarmelo. Beh, proverò quello blu. Come va? Le va un po' stretto in vita, ma si può allargare. E poi il blu le sta d'incanto. Già, sembra anche a me. Non dirmi che non ti piace neppure questo. Fatti vedere. Girati. Sì, va bene. Adesso però toglitelo, che ce ne andiamo. Può farlo aggiustare? Sì, certo, signora. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Dica pure. Avrei bisogno di un abito elegante, da cerimonia. Devo metterlo a un matrimonio. Tinta unita o fantasia? Non ho idea. Mi consigli lei? Attenda un attimo. Gliene faccio vedere alcuni veramente belli. Tutti quei modelli. E vuoi provarteli tutti? Non mettermi fretta, ti prego. Se non ce ne andiamo fra una mezz'ora, arrivo in ritardo alla banca. Ecco, la taglia 48 dovrebbe andarle bene. Vediamo. Proverei prima questo verde, poi quello blu. Anche quello rosso non è male, ma i colori vivaci non mi donano. Mi dia retta, se lo provi. È un modello nuovissimo. E guardi che seta. Beh, me lo dia. Proverò anche questo. Anzi, lo provo subito. Allora, come sto? Non è un po' troppo vivace? Ma no, lo sapevo che le andava bene. Che te ne pare, Giorgio? Dimmi la verità. Se devo essere sincero, non lo prendere. Non sei più una ragazzina. Ci vuole una persona alta e magra. Già, dovevo immaginarmelo. Beh, proverò quello blu. Come va? Le va un po' stretto in vita, ma si può allargare. E poi il blu le sta d'incanto. Già, sembra anche a me. Non dirmi che non ti piace neppure questo. Fatti vedere. Girati. Sì, va bene. Adesso però toglitelo, che ce ne andiamo. Può farlo aggiustare? Sì, certo, signora. Vocaboli, pagina 467. Scarpe con i tacchi. Impermeabile. Maglione. Borsa. Giacca. Altri vocaboli di pagina 467. Oliera. Saliera. stuzzicadenti, secchiello del ghiaccio. Vocaboli, pagina 468. Tovagliolo, cucchiaio, forchetta, coltello. Altri vocaboli di pagina 468. Pulire la stanza. Cambiare le lenzuola. Lavare la biancheria. Stirare un vestito. Vocaboli pagina 469. Impermeabile. Pantacollant. Costume da bagno. Maglietta. Altri vocaboli di pagina 469. Camicetta, cravatta, foulard. Vocaboli pagina 473. Giubbotto, gonnellina, cappello, borsa da viaggio. Vocaboli pagina 475. Gonna gialla, abito bianco, scarpe marroni, pantaloni neri. Diciottesima unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 31. Chi l'ha vista? Mia moglie è uscita alle 5 di sera di venerdì e non è più tornata a casa. Sono passati ormai 3 giorni. E il dubbio che sia successa una disgrazia diventa sempre più forte. Per poterla ritrovare ho bisogno dell'aiuto di altre persone. Perciò mi rivolgo a voi. Chiunque abbia visto una donna di circa 50 anni, alta 1,60 m, piuttosto magra, con i capelli grigi e gli occhi chiari, è pregato di mettersi in contatto con me o con la polizia. Al momento della scomparsa mia moglie indossava una giacca marrone con una gonna arancione chiaro. Aveva scarpe marroni e una borsa bianca. Vi ringrazio per la vostra collaborazione. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 485. Vorrei vedere un paio di jeans. Che taglia ha? 44. Ci sono i Levi's, questi neri di Ferré. No, neri li ho già. Ne vorrei un paio bianco. Un attimo che glieli prendo. Ah, senta, potrei vedere anche delle camicette di cotone. Certo, gliele porto subito, così se le prova insieme ai pantaloni. Ecco qui. Quanta roba! Faccia con calma, non c'è fretta. Senta, i jeans mi vanno un po' stretti in vita, non ci sarebbe una 46? Credo di sì, ora gliela porto. Ha scelto la camicetta? Pensandoci bene, di camicette ne ho abbastanza. Avrei invece bisogno di una giacca. Entrando ne ho vista una di lino marrone chiaro. Ah! Quella è una vera occasione. Costa solo 190.000 lire. È l'ultima rimasta ed è proprio la sua taglia. Potrei provarla? Subito. Gliela porto insieme ai pantaloni. Ecco, guardi, che gliene pare? Lo sapevo che le andava bene. Sembra fatta su misura per lei. E la taglia 46 è giusta per i jeans. Bene, prendo la giacca e i jeans. Allora sono 270.000. Si accomodi pure alla cassa.